Capitolo 7. La sposa del maestro. Chi fu la prima sposa che venne in questa casa, capitano Jim? Chiese Anna quando dopo cena si riunirono attorno al caminetto. Aveva forse a che fare con la lontana storia legata a questa casa? Chiese Gilbert. Qualcuno mi ha detto che lei la conosce, capitano. Beh, sì, è vero. Non c'è più nessuno a Four Winds, credo che ricordi la moglie del maestro quando venne sull'isola. Sono 30 anni che è morta. Ma era una di quelle donne che non si dimenticano. Oh, ci racconti la storia, lo pregò Anna. Voglio sapere tutto delle donne che hanno vissuto in questa casa prima di me. Beh, sono solo tre: Elizabeth Russell e la signora Ned Russell e la sposa del maestro. Elizabeth Russell era una persona cara e simpatica, e anche la signora Ned Russell era simpatica, ma non avevano niente a che vedere con la sposa del maestro. Il maestro si chiamava John Silwyn. Venne dal vecchio mondo per far scuola a Glen quando io avevo 16 anni. Non era il solito disgraziato che arrivava a quei tempi. Per lo più erano ubriaconi e insegnavano agli scolari le tre R quando non avevano bevuto, salvo poi picchiarli quando erano ubriachi. Ma John Silwyn era un giovane bello e a modo. Stava a pensione da mio zio e io e lui eravamo amici anche se aveva 10 anni più di me. Leggevamo. Facevamo passeggiate, parlavamo molto. Sapeva tutte le poesie di questo mondo, mi pareva, e le citava la sera mentre camminavamo lungo il mare. Per mio padre era una gran perdita di tempo, ma la tollerava sperando che mi togliessi di testa l'idea di imbarcarmi. Beh, niente e nessuno poteva riuscirci. La mamma era di una razza di marinai e io il mare ce l'ho nel sangue, ma mi piaceva molto sentire John leggere e declamare. Sono passati quasi 60 anni, ma saprei ancora ripetere intere poesie imparate da lui. Quasi 60 anni. Il capitano Jim tacque per qualche istante, fissando il bagliore delle fiamme come in cerca del passato. Poi, con un sospiro, riprese il racconto. Ricordo che in una sera di primavera lo raggiunsi sulle dune. Era al settimo cielo, come lei stasera, dottor Blythe. Quando ha portato in casa Madama Blythe, mi è subito tornato in mente. Mi disse che aveva una fidanzata a casa e che sarebbe venuta da lui. Io non ero granché contento, brutto egoista che ero, perché pensavo che una volta arrivata lei, lui non mi sarebbe più stato amico come prima. Ma ebbi la decenza di non farglielo capire. Mi raccontò tutto di lei. Si chiamava Persis Lee. E non era venuta sull'isola con lui per via di un vecchio zio. Era ammalato e le aveva fatto da padre dopo la morte dei genitori, perciò lei non aveva voluto lasciarlo. Ora era morto e lei veniva a sposare John Silwyn. Non era un viaggio comodo per una donna a quei tempi, bisogna ricordare che non c'erano ancora le navi a vapore. Quando arriverà? Chiesi. Si imbarca sulla Royal William il 20 giugno, rispose. Dovrebbe essere qui per metà luglio. Bisogna che metta a lavoro il carpentiere Johnson perché mi faccia una casa. La lettera è arrivata oggi. Già prima di aprirla sapevo che portava buone notizie. Ho visto Persis qualche sera fa. Non capivo e allora mi spiegò, ma non ci capii molto di più. Disse che aveva un dono, oppure una maledizione. Sono le sue testuali parole. Madama Blythe, un dono oppure una maledizione. Nemmeno lui sapeva se era l'uno o l'altra. Disse che l'aveva anche una sua trisavola ed era finita sul rogo come strega. Disse che ogni tanto gli capitavano delle strane visioni. Anzi, mi sembra che le chiamasse trance. Esistono davvero, dottore? Ah, oh, ci sono certamente persone soggette a trance, rispose Gilbert. Il problema riguarda più la ricerca psichica che quella medica. Com'erano le trance di questo John Silwyn? Boh, diceva che vedeva delle cose. Disse il capitano Jim. Badi, io riferisco quel che mi disse lui. Allora, vedeva cose che stavano accadendo e cose che stavano per accadere. A volte lo consolavano e a volte lo terrorizzavano, disse. Ne aveva avuta una 4 sere prima, così, a un tratto, mentre era seduto davanti al fuoco. Aveva visto una camera che conosceva bene in Inghilterra e Persis Lee che gli tendeva le braccia con espressione felice. Allora aveva capito che gli sarebbero arrivate buone notizie. Un sogno, solo un sogno, disse il vecchio dottor Dave con sufficienza. Probabile, probabile, ammise il capitano Jim, è proprio quello che gli dissi io allora. Ed era anche parecchio più comodo. Non mi piaceva l'idea che lui potesse prevedere così le cose. Non era naturale. No, mi disse, non l'ho sognato. Ma non parliamone più. Più ci penserai e meno mi sarai amico. Gli assicurai che niente poteva intaccare la mia amicizia. Scosse la testa e disse, non parlo a vanvera, ragazzo. Ho già perso degli amici per questo. Non li condanno. A volte anch'io non mi sento a mio agio con me stesso. Un potere del genere è in sé qualcosa di divino, ma chissà. E questa sua natura divina è buona o malvagia? Noi mortali sfuggiamo a un contatto ravvicinato con Dio o con il demonio. Sono parole sue. Le ricordo come se fosse ieri, anche se non le compresi. Secondo lei cosa voleva dire, dottore? Oh, dubito che lo sapesse lui stesso, disse il dottor Dave con una certa irritazione. Io credo di capire, sussurrò Anna. Stava ascoltando nel consueto atteggiamento, con le labbra serrate e gli occhi incantati. Il capitano Jim indugiò a osservarla prima di proseguire il racconto. Beh, di lì a poco tutti, a Glen e a Four Winds, sapevano dell'arrivo della moglie del maestro ed erano contenti perché avevano molta stima di lui. E tutti si interessarono della sua nuova casa, questa qui. Scelse questo posto perché si vedeva la baia e si sentiva il mare. Sistemò il giardino per la sposa, ma i pioppi non li piantò lui. È stata la signora Ned Russell. Ma nel giardino ci sono ancora due siepi di rose piantate per la sposa del maestro dalle scolare di Glen. Lui diceva che erano rosa come le sue guance, bianche come la sua fronte e rosse come le sue labbra. A furia di citare poesie, finiva poi per parlare in versi. Tutti gli portarono qualcosa per contribuire all'arredamento della casa. E quando poi arrivarono i Russell, che erano gente agiata, l'arredarono molto bene, come vedete, ma i primi mobili erano molto semplici. Però questa casetta era ricca di amore. Le donne mandarono imbottite, tovaglie, asciugamani, un uomo fece un armadio e un altro un tavolo e così via. Persino la zia Margaret Boyd, che era vecchia, intrecciò un cestino con giunchi profumati raccolti sulle dune. La sposa del maestro lo usò per anni e anni per riporvi i fazzoletti. Beh, infine fu tutto pronto, persino la legna nel grande camino. Il camino non era precisamente questo, anche se era nello stesso posto. Questo lo fece mettere la signorina Elizabeth 15 anni fa, risistemò la casa. Era un grande camino all'antica dove si sarebbe potuto arrostire un bue intero. Quante volte, come questa sera, ho raccontato vecchie storie seduto qui davanti. Calò di nuovo il silenzio e il capitano Jim ritrovò nel ricordo il viso di coloro che in un passato ormai svanito si erano seduti con lui attorno a quel camino, con gli occhi pieni di allegria e felicità nuziale. Ma ormai quegli occhi erano spenti, sepolti tra le zolle del cimitero o in fondo al mare ondoso. Qui, in lontane serate, erano riecheggiate le risa argentine di bambini e bambine. E qui si erano riunite le amiche e gli amici nelle sere d'inverno, qui vi erano stati balli, musica e divertimenti, qui avevano sognato giovanotti e fanciulle. Per il capitano Jim la casetta era abitata da ricordi che era impossibile ignorare. Era il 1° luglio quando la casa fu finita. Allora il maestro incominciò a contare i giorni. Lo vedevano camminare in lungo e in largo sulla spiaggia e dicevano: tra poco saranno insieme. L'aspettava per la metà di luglio, ma non arrivò. Nessuno si preoccupò. I velieri tardavano spesso di giorni, se non di settimane. E la Royal William era in ritardo di una settimana, poi di due, poi di tre. Alla fine incominciammo ad avere paura e per il maestro fu sempre peggio. Non riuscivo più a guardare in faccia John Silwin. Sa, Madama Blythe, il capitano Jim abbassò la voce. Mi pareva che avesse lo stesso sguardo della trisavola quando era salita sul rogo. Non parlava molto, faceva scuola come un sonnambulo e poi correva sulla spiaggia. Per molte notti vi restò dal tramonto all'alba. La gente diceva che stava uscendo di senno. Ormai tutti avevano rinunciato a sperare. La Royal William era in ritardo di 8 settimane. Si era ormai a metà settembre e la sposa del maestro non era ancora arrivata e non sarebbe arrivata mai più, pensavamo noi. Poi ci fu una gran tempesta che durò 3 giorni e quando finì la sera andai alla spiaggia. Ci trovai il maestro, appoggiato a uno scoglio, con le braccia conserte e gli occhi fissi sul mare aperto. Gli parlai, ma non mi rispose. Sembrava che guardasse qualcosa di invisibile. Aveva il volto immobile, come quello di un morto. John! John! Lo chiamai, così come un bambino spaventato. Svegliati, svegliati! Quell'espressione terribile sparì a poco dai suoi occhi, voltò la testa e mi guardò. Non ho mai dimenticato la faccia che aveva e mai la dimenticherò fino all'ultimo viaggio. Tutto bene, ragazzo, disse. Ho visto la Royal William che doppiava il capo Est. Sarà qui all'alba. Domani sera sarò con la mia sposa davanti al camino di casa mia. Ma secondo voi l'aveva vista davvero? Soggiunse subito il capitano Jim. Dio solo lo sa, rispose sommessamente Gilbert. I grandi amori e i grandi dolori possono compiere ogni sorta di meraviglie. Son certa di sì, disse Anna con convinzione. Oh, assurdità! Affermò il dottor Dave, ma il tono era meno sicuro del solito. Ebbene, annunciò solennemente il capitano Jim, la Royal William entrò nella baia di Four Winds alle prime luci del giorno dopo. Tutta la gente di Glen della Costa era al vecchio molo ad accoglierlo. Il maestro aveva aspettato tutta la notte. Che tripudio quando entrò in porto! Il capitano Jim aveva gli occhi lucidi ancora adesso, vedeva la baia di Four Winds com'era 60 anni prima e una nave malconcia che avanzava nell'alba luminosa. Percy Slee era a bordo? Chiese Anna. Sì, e anche la moglie del capitano. La traversata era stata orribile, una tempesta dietro l'altra, e poi erano rimasti senza viveri. Ma finalmente erano arrivati. Quando Percy Slee scese sul vecchio molo, John Silwyn la prese tra le braccia. Allora la gente smise di far festa e incominciò a piangere. E piansi anch'io, ma lo ammisi solo molti anni dopo. È strano, vero? Come i giovani si vergognano delle lacrime. Percy Slee era bella? Chiese Anna. Beh, non so se si potrebbe definire bella. Non lo so, disse lentamente il capitano Jim. In certo senso non si arrivava mai al punto di chiedersi se era bella o meno. Non aveva importanza. C'era in lei qualcosa di tanto dolce e ammaliante che non si poteva non volerle bene. Però sì, era graziosa, grandi e limpidi occhi nocciola, folti e lucidi capelli castani e una bianca pelle inglese. John e lei si sposarono quella sera a casa nostra al lume di candela. Tutti erano venuti da lontano e da vicino a vedere le nozze, poi li accompagnammo qua giù. Madama Selwyn accese il fuoco e noi li lasciammo seduti lì, proprio come aveva visto John nella sua visione. Strano. Proprio strano, ma ai miei tempi ho visto un mucchio di cose strane. Il capitano Jim scosse la testa con l'aria del vecchio saggio. È una bella storia, disse Anna, pienamente soddisfatta di quel racconto romantico. Per quanto tempo vissero qui? 15 anni. Io, da quello scavezzacollo che ero, poco tempo dopo fuggii per andarmi a imbarcare, ma ogni volta che scendevo a terra venivo subito qui. Ancora prima di tornare a casa mia, vi parlavo del viaggio con Madama Selwyn. 15 anni felici. Erano portati alla felicità quei due. Certa gente è così. Non so se l'ha notato anche lei. Non riuscivano a essere infelici a lungo, nonostante i dispiaceri. Bisticciavano un paio di volte perché tutti e due avevano il loro carattere. Ma Madama Selwyn mi disse una volta con quel suo riso dolce: sono stata malissimo quando ho bisticciato con John, ma in fondo sono felice perché con mio marito potevo bisticciare e poi far la pace. Poi si trasferirono a Charlottetown e questa casa la comprò Ned Russell e ci portò la sposa. Erano una coppia giovane, a quanto ricordo. La signorina Elizabeth Russell era la sorella di Alec. Venne a vivere con loro un anno dopo e anche a lei piaceva l'allegria. I muri di questa casa devono essere impregnati di risate e buon umore. Lei è la terza sposa che vedo entrare qui, Madama Blythe, ed è anche la più bella. Il capitano Jim riusciva a conferire a un complimento tanto comune tutta la delicatezza di una violetta di bosco, ed Anna lo accettò con piacere. Era in forma splendida, con il rossore nuziale sulle guance e la luce dell'amore negli occhi. Persino il burbero dottor Dave la guardò con ammirazione e, tornando a casa quella sera, disse alla moglie che quella Anna dai capelli rossi era proprio una bella ragazza. Devo tornare al faro, annunciò il capitano Jim. È stata una serata straordinaria. Deve venire a trovarci spesso, disse Anna. Non so se mi inviterebbe ancora, se sapesse quanto volentieri ne approfitterei. commentò spiritosamente il capitano Jim. Il che vale a dire che non sa se sono stata sincera, disse Anna con un sorriso. Lo giuro e lo stragiuro, come dicevamo ai tempi della scuola. Allora verrò, vedrete, vi capiterò in casa quando meno ve lo aspettate. E sarò fiero se anche voi verrete a farmi visita di quando in quando. Di solito parlo solo con il secondo e sia lode alla sua natura cordiale. È un ascoltatore eccezionale, la sa più lunga lui di qualunque McAllister, ma come conversatore non è un granché. Lei è giovane, ma io sono vecchio, ma mi sembra di capire che quanto a spirito abbiamo la stessa età. Apparteniamo tutti e due alla razza che conosce Giuseppe, come direbbe Cornelia Bryant. La razza che conosce Giuseppe? Chiese Anna perplessa. Oh sì, Cornelia divide la gente in questo mondo in due razze, quelli che conoscono Giuseppe e quelli che non lo conoscono. Se qualcuno vede le cose come te e ha più o meno le tue stesse idee e gli stessi gusti per le freddure, allora appartiene alla razza che conosce Giuseppe. Oh, capisco, esclamò Anna, che aveva intuito il concetto. È quella che chiamavo e che ancora chiamo anima gemella. Già, già, concordò il capitano Jim. Allora noi due siamo quella cosa lì. Quando lei è entrata qui stasera, Madama Blight, mi sono detto: sì, è proprio della razza che conosce Giuseppe. Ero contentissimo perché altrimenti stare in compagnia non ci avrebbe dato nessuna soddisfazione. A mio vedere, la razza che conosce Giuseppe è il sale della terra. La luna era appena sorta quando Anna e Gilbert si congedarono dai loro ospiti sulla porta. La baia di Four Winds andava assumendo i caratteri di una stupenda visione di sogno, un porto magico, inaccessibile alle tempeste. I pioppi del viale, alti e cupi come figure sacerdotali di un corteo mistico, agitavano le cime argentee. Mi sono sempre piaciuti i pioppi, disse il capitano Jim con un ampio gesto. Sono gli alberi delle principesse, ora non sono più di moda, la gente si lamenta perché quando la cima è secca prendono un'aria sfilacciata. Già, già, se non si rischia il collo ogni primavera su una scala leggera per potarli. L'ho sempre fatto io ai pioppi della signorina Elizabeth, era molto affezionata a quegli alberi, le piacevano perché erano dignitosi e riservati. Non danno confidenza al primo che capita. Se gli aceri sono alberi alla mano, Madama Blythe, i pioppi sono alberi da Galateo. Che bella serata, disse la moglie del dottor Dave salendo sul carrozzino. Sono davvero tante le sere belle qui, disse il capitano Jim. Ma ammetto che una sera di luna a Four Winds mi fa sentire quasi in paradiso. La luna è amica mia, Madama Blythe. La adoro fin da quando ho l'uso della ragione. Quando avevo 8 anni, una sera mi addormentai nel giardino e nessuno si accorse della mia mancanza. Mi svegliai a notte fatta e mi spaventai a morte. Che ombre, che rumori strani tutto attorno. Non osavo muovermi. Poverino, restai lì rannicchiato e tremante. Mi sembrava di essere solo al mondo e il mondo era grandissimo. Poi a un tratto vidi la luna che mi guardava dall'alto, tra i rami del melo, proprio come una vecchia amica. E mi consolai subito. Mi alzai e mi avviai verso casa, coraggioso come un leone, con gli occhi fissi al cielo. Quante notti l'ho guardata dal ponte del mio veliero su mari lontani da qui. Ma perché non mi dite di allascare la lingua e andarmene a casa? L'eco allegra dei saluti svanì infine. Mano nella mano, Anna e Gilbert fecero il giro del loro giardino. Il ruscello che scorreva all'angolo occhieggiava argenteo tra le ombre delle betulle. I papaveri che crescevano lungo le rive sembravano coppe di luce lunare. I fiori piantati dalla sposa del maestro spandevano il loro profumo nell'aria ombrosa. Era l'essenza della bellezza e della felicità di un passato ormai sacro. Anna indugiò al buio per staccare un tralcio fiorito. Adoro sentire il profumo dei fiori nell'oscurità, disse. Ne cogli l'anima. Oh, Gilbert, questa casetta è proprio come l'avevo sognata e sono contenta di non essere la prima sposa della sua storia.